Sottotiro. Sottotiro. Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Cari radioascoltatori, buongiorno. Come sapete, nelle settimane scorse abbiamo più volte avuto nostri ospiti, consiglieri della regione Lombardia, che hanno iniziato un percorso, diciamo così, legislativo di accompagnamento della legalità con fatti e atti concreti. Ricorderete, abbiamo avuto il presidente della commissione antimafia, abbiamo avuto diversi consiglieri di diversi partiti. Oggi torniamo ad occuparci della Regione Lombardia, perché la Regione Lombardia ha votato una legge sull'educazione alla legalità e giunge nel momento in cui ovviamente la Lombardia è al centro delle cronache nazionali, ormai da mesi, possiamo dire da anni, per gravi vicende di infiltrazione delle mafie, 'Ndrangheta, Camorra e clan dei Casalesi e Cosa Nostra, ma soprattutto parliamo di 'Ndrangheta. Allora, questa legge sull'educazione alla legalità ha avuto un relatore che si chiama Renzo Bossi, che il papà Umberto affettuosamente definì e chiamò più che il proprio delfino la trota. Evidentemente la trota aveva da nuotare in mari più aperti che un'umile trasmissione di Radio 24, perché l'abbiamo tempestato di telefonate, mail, chiamate, fax, chi più ne ha più ne metta, per parlare con noi della legge della quale lui è stato relatore. Non c'è stato niente da fare, e così abbiamo chiamato chi? Abbiamo chiamato colui il quale ha proposto questa legge, Giulio Cavalli, il consigliere Giulio Cavalli, al quale mai han tolto la scorta e che vive, che bellezza, sotto scorta per le sue continue denunce delle mafie, innanzitutto come poeta del teatro, come mi piace definirlo. Buongiorno Giulio. Buongiorno a voi. Parlaci di questa legge. È una legge che nasce da un'iniziativa dell'associazione di qualche anno fa, ed è una legge che legittima un lavoro che già esiste in realtà. Finalmente smette di essere un lavoro sommerso, che è quello di tanti insegnanti che tutti i giorni girano la Lombardia per andare a raccontare nelle scuole ai ragazzi che cosa significa legalità, responsabilità e Costituzione. E in più che riconosce la giornata del 21 marzo, finalmente una volta per tutte, come la giornata dedicata alle vittime di mafia. Assolutamente, che ricordiamolo sono circa un migliaio dalla fine del 1800 ad oggi. Sul sito di Libera potete sapere di più, www.libera.it. Nel concreto, che cosa vuol dire smettere di essere frazionati ed avere un coordinamento unico, Giulio? Che cosa vuol dire nel concreto? Viene creato un osservatorio regionale che deciderà i temi per ogni anno su cui decide di investire all'interno delle scuole. Vengono stanziati 500.000 euro ogni anno, e questo è un aspetto importante perché è un po' la polpa di ogni legge. Quindi è una bella somma, obiettivamente. È una bella somma, sì. Poi paragonata alla sanità lombarda, certo, la briciola del mare, però le briciole che si cominciano. Assolutamente. Ecco, chi andrà ad insegnare? Chi avvierà questi percorsi di legalità, che poi molte scuole hanno già, come dire, in proprio fatto all'interno delle scuole lombarde? Qui ci sarà da divertirsi, perché di associazioni in Lombardia attive ce ne sono. Mi viene in mente, non so, ad esempio l'associazione Omicron, certo, e di Antocchia, mi viene in mente Libera stessa, Ammazzateci Tutti, ha aperto un presidio lombardo che sta funzionando. Ma se io volessi venire, Giulio, volessi essere anche un testimone, che devo fare? Devo farmi raccomandare da te? No, devi avere la residenza in Lombardia, perché sai che è la padanità federalista. Ma io sono un padano acquisito, io ho la mia bella residenza qui in Lombardia. È successa una cosa un po' simpatica in aula, che secondo me va raccontata. Dilla pure. La legge nasce, se vogliamo, per legittimare il lavoro. Libera è capofila, no, di molte di queste associazioni. L'assessore La Russa, omonimo nonché fratello del più famoso ministro, certo, aveva dichiarato che questa legge non deve arricchire, riempire le tasche di associazioni comuniste e politicizzate come Libera. Ah. Quindi penso che ora sull'attuazione della legge sicuramente ci sarà ancora da lottare. Assolutamente sì, e noi saremo qui per percorrere queste vostre tappe di avvicinamento. Però io voglio fare l'avvocato del diavolo. La Russa poi non ha tutti i torti, non che Libera sia comunista, ma voglio dire, anche le briciole a volte fanno gola, no? Quindi comunque ci sarà da vigilare sulla distribuzione di questi soldi. Concordi con me su questo, Giulio? Certo, assolutamente. Su questa vicenda sicuramente si riesce a vigilare. a differenza del mare magnum, sai, di altri settori. Tanto per dirne uno, sanità, infrastrutture, opere pubbliche, insomma. Bravissimo, su questo si riesce. E tieni conto che comunque, adesso al di là di tutto, al di là di Renzo Bossi incensato come se fosse il depositario della legge, quando il relatore in realtà è un ruolo molto marginale, e al di là degli scontri politici, c'è da dire che è stata molto bipartisan. E questo fa piacere. Allora ringraziamo il consigliere lombardo Giulio Cavalli, attore di teatro, scrittore, purtroppo uno di noi che vive in condizioni di scorta, perché le mafie, sapete com'è, a volte decidono di eliminare chi dà fastidio. Grazie a lui, grazie a Roberto Scaltritti in regia, Laura Fagini in redazione e Roberto Galullo vi augura una buona giornata.